12. La vedova. 30.000 cinesi furono uccisi durante il periodo noto come la rivolta dei Boxer. 45.000 soldati stranieri, giapponesi, russi, tedeschi, inglesi, francesi, americani, sotto il comando del tedesco von Waldersee, occuparono le province settentrionali per vendicare la morte di 300 stranieri. Nell'anno della Tigre, 1902, la corte tornò a Pechino e il pennello vermiglio firmò il protocollo degli alleati, ammettendo così che il Regno di Mezzo aveva scatenato la guerra non solo contro altre nazioni, ma contro la stessa civiltà. Molti membri della famiglia imperiale e quei consiglieri che avevano sostenuto i Boxer, inducendo così la vedova in errore, ricevettero corde di seta, un gesto di clemenza imperiale. Ciascuno fissò la corda alla trave maestra della sua casa e si tolse la vita come imponevano l'onore e il dovere. Dopo la sua fuga a Siena e il suo ritorno nella capitale, la concubina giunse alla conclusione che il Regno di Mezzo era afflitto dalla miseria e che occorrevano cambiamenti. Senza indugio istituì una serie di radicali riforme per rimediare all'ignoranza della popolazione e per sviluppare la forza economica e militare del paese. 14 divisioni furono reclutate e addestrate da istruttori stranieri. Migliaia di studenti meritevoli furono mandati all'estero per studiare a spese del governo e l'antico sistema degli esami fu abolito. Durante i 3 anni che seguirono, queste riforme conseguirono numerosi successi, ma erano giunte troppo tardi, poiché niente era paragonabile alla vittoria del Giappone sul vasto impero russo nell'anno del serpente 1905. Niente poteva far rifiorire l'orgoglio nazionale. E così, anche se l'editto imperiale preannunciava un governo costituzionale, le insurrezioni e le repressioni delle insurrezioni continuarono. Nel 1907, anno della pecora, l'eroina rivoluzionaria Qiu Jin fu torturata senza alcun esito e poi decapitata e il suo corpo fu lasciato marcire. La sua voce risuonò per tutto il paese. Il sole tramonta e nessuna strada è visibile. Invano piango per la perdita del mio paese. Anche se muoio, vivrò. Col sacrificio ho compiuto il mio dovere. Nel 1908, l'anno della scimmia, l'imperatore Quang Su morì all'ora del gallo e l'imperatrice vedova morì all'ora della capra del giorno seguente. Egli aveva 37 anni, lei il doppio esatto. Alcuni dicono che la vedova avesse contagiato il suo asciugamano col vaiolo in modo che non sopravvivesse alla zia e non ne facesse di seppellire le ossa. Come poteva sapere che tanto presto sarebbe caduta vittima di una indigestione fatale dopo aver cenato con mele selvatiche e crema? Il nuovo imperatore, Xuan Tung, era un bambino di 2 anni. Il nuovo reggente, il principe Chun, riportò i conservatori al potere. Storia cinese. Il clan dei Wu decise di non ricostruire la casa sulla strada dei Salici, ma di vendere la terra. Per amicizia, il ricco Lin acquistò la proprietà. Parte degli introiti fu usata per la dote e le spese di nozze delle gemelle che andarono spose a figli di amici di famiglia nel villaggio delle canne. Quel che restò apparteneva al clan, che da allora in poi diede un appannaggio ai pochi membri della famiglia rimasti a Pechino. Ridotto così il loro tenore di vita, la Hanlin e sua moglie, la concubina, la nuora e la nipotina si trasferirono dalla dimora dello studioso Yen in una piccola casa di affitto vicino alla porta orientale. Non c'erano cortili interni ed esterni, ma un unico cortile e 3 tetti. Scomparsa la foresta dei pennelli, Hanlin, salda rettitudine, si ritirò, lavorando per suo unico piacere a un dizionario di antica scrittura. L'una di primavera diventò la sua assistente, annotando le voci mentre già da lucente giocava in un angolo. Man mano che il tempo passava, lo studioso e la nipote riuscirono ad accettare la loro nuova vita con serenità, senza rancore. Gioia di Loto e la concubina non riuscirono a fare altrettanto. Nessuna delle loro speranze si era realizzata e avevano poco da fare e nessun posto dove andare. Non potevano certo farsi vedere nei circoli esclusivi che avevano frequentato un tempo. E come potevano prendere il tè con le donne del vicinato, mogli volgari di rozzi usurai e impiegatucci? Dalla noia bisticciavano incessantemente e si lamentavano spesso con la Hanlin e Luna di Primavera per la loro condotta. Non basta essere poveri, voi fate nascere delle chiacchiere col vostro comportamento sconveniente. In una casa come si deve, il padre e la nuora stanno insieme raramente. In questa casa raramente sono separati. Gioia di Loto inoltre se la prendeva perché Luna di Primavera non le aveva dato un nipote. In principio aveva chiamato la piccola gioiello senza valore. Eppur essendosi affezionata a lei, continuava a lamentarsi per il suo sesso. La sua tenerezza e la sua delusione erano una cosa sola. Mio tesoro buono a nulla, a cosa servi? Ti curerai di me quando sarò vecchia? Compirai i riti per assicurare il mio benessere nell'aldilà? No, ingrasserai alla nostra tavola, diventerai più bella, ti prenderai una cospicua dote e scomparirai per sempre nella casa di tuo marito. Ah, gioiello senza valore, se soltanto fossi stato un maschietto. Quando già da lucente ebbe compiuti 3 anni, il lamento era familiare, come fosse una filastrocca, e la bambina si univa al coro cantando: Aia, aia, una figlia con le virtù di 18 Lohan non vale uno stupido maschio dai piedi piatti. Quando venne l'autunno dell'anno del serpente, l'Hanlin era moribondo. Era sempre in grado di ragionare e di parlare, ma confondeva persone e date. Poiché si avvicinava alla fine, nessuno desiderava correggerlo. Sembrava doveroso lasciarlo in compagnia di chi volesse non interferire nelle sue scelte. Chiedeva spesso di Giada Lucente. La bambina non sembrava impaurita dal suo pallore o dall'odore acre della malattia e delle medicine o dagli strani giochi che faceva. Con aria solenne, stava seduta per ore su una seggiolina ad ascoltarlo pazientemente, intuendo chissà come che non doveva ridere e rompere l'incantesimo quando gli chiedeva al prete di radergli la faccia e al barbiere di pregare per lui. Fu presente alla vigilia della morte di salda rettitudine quando questi dettò a Luna di Primavera un'ultima petizione al trono imperiale. Da quando lo straniero ha arrecato dolore alle vostre sacre persone, voi avete chiesto il consiglio dei vostri umili servitori nel desiderio di instaurare una linea di condotta che riporti la pace nei santuari dei vostri antenati e fra il popolo cinese, ma finora non siamo riusciti a prevenire la calamità e ad arrecare conforto ai nostri sovrani. Tragiche sono le nostre manchevolezze e ci riempiono di vergogna e di sgomento. Umilmente propongo che si prenda in considerazione la lezione impartitaci dalla guerra fra l'orso polare e la scimmia marrone. Un tempo anche gli abitanti dell'impero del Sole Nascente preferivano non avere rapporti con l'Occidente per continuare sulla loro strada, ma poi capirono che il loro isolamento non sarebbe stato rispettato e decisero di prendere in mano il proprio destino seguendo nuovi orientamenti. Ora abbiamo visto quale successo abbia avuto la loro impresa. Ahimè, la loro guerra fu scatenata per il suolo cinese. Ahimè, i loro cannoni bombardarono la costa cinese. Ahimè, essi combatterono per 18 mesi sulla nostra terra. Ahimè, la nostra neutralità non fu rispettata e i nostri compatrioti furono massacrati. E tuttavia, proprio in queste ultime offese risiedono la speranza e la prova della nostra eventuale ripresa finale. Io, vostro memorialista, desidero ora sottolineare umilmente che se l'impero apprenderà quel che questi altri orientali hanno già appreso dallo straniero, anche noi riusciremo a prevenire ulteriori catastrofi e a ripristinare la giustizia nei disegni dei potenti. La guerra cederà allora alla pace e gli altari dei nostri dei resteranno inviolati. In preda a un'incontrollabile indignazione per la nostra tragedia, presento questo memoriale con le lacrime agli occhi e prego che le vostre maestà si degnino di prenderlo in considerazione. Per tutta la notte il vecchio letterato continuò a dettare sempre la stessa lettera, ordinando che fosse spedita subito, richiamando ogni volta Luna di Primavera come se dovesse ancora essere scritta. Infine si addormentò. Il mattino dopo non c'era il sole e per tutto il giorno le anatre volarono verso sud. All'ora del cavallo, l'Hanlin aprì gli occhi e annunciò: «La mia ora è venuta, preparatemi!» Ciccia e vecchio falco lo spostarono immediatamente nell'atrio della casa e lo collocarono su un giaciglio di assi coi piedi rivolti alla porta. Poi lo immersero in acqua bollita con foglie fragranti di pompelmo e gli fecero indossare i suoi abiti più belli, blu mezzanotte, con ricami di gru in volo e grani di corallo rosso. Quando tutto fu pronto e i ceri furono accesi, la famiglia si riunì, con gioia di loto, nel punto più vicino al cuore del marito. La Hanlin mormorò parole di gratitudine, familiari e servi scoppiarono a piangere. Giada lucente si staccò dalla madre e prese la mano del nonno moribondo. Nonno, nonno! La Hanlin si mosse, ma non riuscì ad aprire gli occhi. Ebbe un debole sorriso. Figlio mio, sì, nonno. Ricorda i tuoi doveri verso la nostra famiglia. Non dimenticare i dolori del nostro popolo. Prometti, figlio, prometti. Giada lucente si inchinò solennemente. Ti ho sentito, padre, e ubbidisco. Allora sono pronto. Hanlin tenne stretta la piccola mano della bambina per un istante ancora, poi la lasciò andare. Per molte settimane, inginocchiata accanto alla bara del vecchio e piangendo con le vedove, l'una di primavera si domandò che effetto avrebbe avuto quella promessa sulla vita di sua figlia, soffrendo per quello che la morte dell'uomo aveva già avuto sulla sua stessa. Da quando suo marito se n'era andato, Hanley e lei non avevano mai parlato di felice promessa, forse perché entrambi sentivano così intensamente la sua presenza nell'aria che trovavano inappropriato parlare di lui come se non ci fosse. Ora che anche il vecchio se n'era andato, lei non poteva sostenere l'illusione da sola. Prima che il Hanley morisse, Felice Promessa era sempre stato con lei, osservandola, ascoltandola, seguendola da un posto all'altro. Ora lui era altrove e solo quando chiudeva gli occhi per evocarlo le appariva. Non poteva essere che svanisse dalla sua memoria, si diceva. Non poteva essere. Forse suo padre aveva ancora bisogno di lui e forse nell'altro mondo e si erano riuniti così come lo erano lei e sua figlia in questo. Il 49° giorno, salda rettitudine, fu sepolto fra i suoi antenati, sulle colline vicino al villaggio delle canne. Luna di primavera offrì i suoi gioielli nuziali perché fosse celebrato un funerale degno del Hanlin e un cugino povero ma di talento fu adottato per compiere i riti come figlio del defunto. Quando le cerimonie furono completate, seconda promessa accompagnò la sua nuova famiglia nella capitale. Là, secondo gli accordi, proseguì gli studi sotto la tutela dei dotti amici del Hanlin. Gioia di Loto coltivava la sua sola speranza di riacquistare ricchezze e onore con la stessa cura con cui nascondeva le zampe d'oca che ora le segnavano gli angoli degli occhi. Appena seconda promessa sarà noto negli ambienti dei letterati, compreremo una casa più grande nel nostro vecchio quartiere e allora vedrai, le donne di corte mi faranno di nuovo visita. Non ho sempre sostenuto che un figlio vale più dell'oro, ora lo dimostrerò. Luna di primavera non le diceva mai che quel che quasi tutti sapevano. Che gli studi antichi contavano poco nel nuovo secolo, che l'antico sistema delle sinecure era finito, che la moderna generazione di funzionari studiava in Giappone. Perché distruggere inutilmente le sue illusioni? Seconda Promessa era un tipo senza pretese che faceva del suo meglio per riuscire gradito, ma non aveva nessuna inclinazione per le rapide e lucrative carriere commerciali che ora aprivano una seconda strada, anche se decisamente meno desiderabile, verso il prestigio e il potere. Come vedova di Felice Promessa, toccava a Luna di Primavera servire fedelmente la suocera come avrebbe fatto il figlio se fosse vissuto, ma Hanlin, chiamando figlio Giada lucente, aveva ordinato che venisse educata come un ragazzo. Perciò Luna di Primavera aveva anche il dovere di insegnarle a leggere e a scrivere. Non passò molto che una vicina, poi l'altra, chiesero alla vedova Wu di andare a casa loro per dare lezioni ai figli. Gioia di Loto acconsentì, poiché il compenso, per quanto esiguo, l'aiutava a superare la sua avversione per una condotta tanto sconveniente. Di notte, Luna di Primavera chiudeva spesso gli occhi e parlava con Felice Promessa. «Marito mio, hai sentito come tua figlia ha recitato bene la lezione oggi? Non sei fiero? È molto alta. Ora persino Ciccia dice che doveva essere un maschio. Se soltanto Porpor non la chiamasse gioiello senza valore, se soltanto tu potessi parlare con tua madre, lei smetterebbe, ne sono sicura. Oh, se soltanto tu fossi qui. Di tanto in tanto si lasciava prendere dalla malinconia e piangeva. In seguito, ripensando agli anni che erano seguiti alla nascita di sua figlia, a luna di primavera sembrò che il tempo fosse fluito ininterrottamente, scandito soltanto dalle morti, quella di Felice Promessa, del Hanlin e di Vecchio Falco morto nel sonno. Infine, nell'anno della scimmia, dopo molti mesi di sofferenza, spirò Talento Sincero, suo padre. Da quando la vedova aveva abolito l'antico sistema degli esami, egli aveva cominciato a spegnersi. L'onore che tuo padre perseguiva era per lui più prezioso della vita, scrisse Neve Fragrante. Addolorata, luna di primavera, lesse e rilesse quella lettera. Non era forse strano che suo marito e suo padre, così diversi sotto tutti gli aspetti, dovessero soccombere alla stessa fatale malattia? Ceneri dorate. 13. Ritorno a casa. Il pavone vola a sud-est, a ogni 5 lì si volta. Quando venne il canto del gallo, continuai a tessere. Ti ho aspettato, una notte dopo l'altra. In 3 giorni ho finito 5 strisce di stoffa, ma colui che è grande mi trovò troppo lenta. Non era vero che fossi lenta, ma nella tua famiglia com'è difficile essere moglie. Così ti prego di chiedere ai tuoi vecchi genitori, quando verrà il momento, di restituirmi alla mia casa. Ballata della dinastia Han. I bambini avrebbero mai smesso di stuzzicare già da lucente? Si domandava l'una di primavera. Succedeva ogni volta che andavano e venivano dalle case del vicinato in cui lei insegnava, e ora stava succedendo nella loro stessa casa. Piedi grossi, piedi grossi, piedi così grossi che bloccano la strada. Sapendo che se fosse stato in vita, Felice Promessa avrebbe proibito che alla figlia si fasciassero i piedi, luna di primavera, senza alcun rimorso, aveva mentito a Gioia di Loto. Era il fervido desiderio di mio marito. Me l'ha fatto promettere molte volte. Sua suocera non aveva avuto altra scelta se non quella di rispettare la volontà di suo figlio, ma ora luna di primavera dubitava talvolta di aver avuto ragione. Benché alcune convertite, come aveva saputo, non avessero più i gigli dorati al posto dei piedi, nessuna delle bambine del vicinato vi era sfuggita. Le parole di Cice erano come frecce. Tua figlia corre come una selvaggia, come un qualsiasi ragazzo di strada. Non poteva negarlo. A dire il vero, già da lucente usava la sua peculiarità, insieme con la sua inconsueta istruzione, come una corazza contro la crudeltà dei giovani e la compassione dei loro genitori per quella strana orfana. Dal giardino ora veniva la sua replica beffarda. Piedi minuscoli, piedi di giglio, gelate col freddo, puzzate col caldo. Luna di primavera sospirò e si alzò per chiudere la porta. Oggi non poteva permettersi il lusso di distrarsi. A partire da Capodanno, Gioia di Loto doveva essere ricorsa senza esito a tutti i possibili stratagemmi per incoraggiare la carriera di Seconda Promessa. Il nipote era sprofondata nella disperazione. Al termine delle festività aveva ordinato alla concubina di tornarsene al villaggio delle canne per servire le zie più anziane e aveva cominciato a ricevere oggi pomeriggio una serie di mediatrici. Mandava Ciccia a comprare ravioli e dolci per queste donne. La sera contava silenziosamente ogni boccone che luna di primavera e sua figlia si mettevano in bocca. Infine, quasi un mese prima, il quarto giorno dell'ottava luna, Ciccia aveva annunciato che le trattative per la sposa di Seconda Promessa e la sua dote erano concluse. Subito dopo erano iniziate le allusioni della suocera. Quanti cortili avevi a Sciucciao? Molti devono essere vuoti oggi. Dapprima luna di primavera non aveva preso seriamente le sue chiacchiere. Soltanto le mogli che commettevano flagrante adulterio venivano rimandate alle loro famiglie. La vita in famiglia, per quanto difficile, era sempre preferita ad una pubblica vergogna. Ma la settimana precedente Gioia di Loto aveva proibito alla nuora di continuare a insegnare. Non voglio che tu vada come una serva nei cortili degli altri, non voglio. Improvvisamente la porta si aprì e luna di primavera alzò gli occhi, aspettandosi di vedere uno dei bambini cercare un posto in cui nascondersi o qualcosa da mangiare, e invece sulla soglia vide Gioia di Loto. Porpor, in che cosa posso esservi utile? Senza nemmeno un saluto, la donna cominciò a urlare. Non ti basta che sia una femmina, non ti basta che abbia i piedi grossi, deve anche insozzare continuamente il mio nome, mescolandosi a quegli straccioni? D'ora in poi resterà chiusa in queste stanze. Improvvisamente, come era venuta, la donna se ne andò. Non una sola volta nella sua sfuriata aveva pronunciato il nome della diletta nipote. Le gocce di pioggia tamburellavano sul tetto come l'archetto di un suonatore di Ho Chi Minh prima che inizi l'opera. Le due donne sedevano una di fronte all'altra, pronte a recitare la propria parte. Dopo aver servito il tè, la nuora parlò per prima. Por, vi prego, perdonate la mia proposta poco filiale, ma posso chiedervi di esonerarmi dai miei doveri così che possa tornare a Sciu Ciao? Gioia di Loto portò la tazza alle labbra. Quando rispose, non vi fu alcuna nota trionfante nella sua voce. È assolutamente fuori dall'ordinario, ma forse non inopportuno. E ora che seconda promessa si sposi, senza una nuova unione vi sono poche speranze per me. Se riusciremo a stabilirla, forse l'onore tornerà nella famiglia del Hanlin. Tu capisci certamente, converrai che è così. Ed è per questo che siamo qua a considerare una cosa tanto impensabile. Non è così, figlia mia? Sì, Porpor, sussurrò Luna di Primavera. E allora che altro posso fare se non acconsentire come tu hai già fatto? Entrambe non possiamo fare altro che pensare all'armonia di questa casa, e così io, vedova del Hanlin, ti do il permesso di tornare al tuo Lao Kia. Per alcuni minuti rimasero sedute in silenzio, ascoltando la pioggia, lasciando che il tè si raffreddasse. Poi, come previsto, Luna di Primavera parlò di nuovo. Porpor, vi prego, perdonatemi per questa mia seconda richiesta, ma permetterete che vostra nipote, la quale dovrebbe restarvi accanto nella stessa casa di suo padre, venga via con me? Non vi fu nessuna risposta. Kuan Yin, misericordiosa, pregò Luna di Primavera. Fate che acconsenta, non posso perdere anche lei. Poi, finalmente, Gioia di Loto parlò con una dolcezza che la nuora non aveva mai conosciuto prima e con parole che non erano affatto di rito. Una volta ti dissi che la bellezza conta poco nella vita. Ora capisci che avevo ragione. Si interruppe, gli occhi spalancati come se ricordasse. Prima che Luna di Primavera potesse decidere cosa dire, l'altra proseguì assorta. La bellezza potrà mai alleviare la pena che proverò quando chiamerò il mio gioiello e vedrò che anche lei se n'è andata. Di nuovo silenzio. Di nuovo si udì soltanto il tamburellare della pioggia autunnale. Infine la suocera pronunciò le parole di prammatica. Io, la madre di tuo marito, ti do il permesso di portare mia nipote con te. Quella stessa settimana, Luna di Primavera, Giada Lucente e Ciccia furono pronte, e il giorno della partenza, anche dopo che il carro si fu allontanato dal cancello, si udì il lamento di Gioia di Loto. Come tutto poteva essere diverso, nipote mia, come tutto poteva essere diverso se soltanto fossi stata un maschio. Dal suo sedile sull'espresso per Nanchino, Luna di Primavera vide per la prima volta quel che aveva soltanto sognato quando era passata di lì tempo addietro, avvolta nelle sue vesti nuziali. La terra del suo Jiangsu nativo. Era lo stesso di una volta, non lo sapeva. Attraverso il finestrino, un chilometro dopo l'altro, si snodavano orti e risaie, un paesaggio così diverso dalle pianure gialle e polverose del nord. Non c'erano città grandi, soltanto qua e là agglomerati di case dalle mura di fango e dai tetti di paglia. Ogni quadrato di terra era coltivato, tranne esilissimi sentieri e tumuli di terra intorno ai quali deviavano gli aratri. Così i morti nelle tombe avevano la loro parte nella terra dei vivi. Un chilometro dopo l'altro, lo spettacolo restava identico. Quando il serpente di ferro correva attraverso i campi, uomini vestiti di blu, dai volti abbronzati, i corpi muscolosi piegati leggermente in avanti e a sinistra, dopo aver portato per anni secchi gemelli di concime per nutrire il raccolto, interrompevano per un attimo il loro lavoro e stavano a guardare. Un chilometro dopo l'altro, Giada Lucente teneva il naso schiacciato contro il finestrino. Quanto durerà ancora? Quanto durerà ancora? Gridava la bambina. Luna di Primavera sorrideva all'eccitazione della figlia, ma taceva. Giada Lucente diede uno scossone alla serva appisolata. Ciccia sussultò: Che cosa c'è? Dimmi quanto durerà ancora il viaggio. Hai voglia di una sculacciata, svergognata, a interrompere così il sonno di una fedele serva? Si grattò energicamente la pancia. Ma quanto durerà ancora? Ah, se non ci saranno banditi, suicidi o culi addormentati lungo i binari, saremo a Sciu Ciao fra un'ora circa. Un'ora? È troppo, ma troppo! Giada Lucente fece il broncio. Tira indietro il labbro, qualcuno lo userà come tavolo. disse la vecchia serva, sbadigliando e radicchiandosi nel suo angolo per farsi un altro sonnellino, un braccio avvolto in atteggiamento possessivo intorno ai fagotti accanto a lei. Dopo un breve silenzio, Giada lucente parlò di nuovo. Madre! Tirò l'una di primavera per la manica. Sì? Perché la Maha ha parlato di suicidi? Perché la gente si dovrebbe uccidere sul treno? No, non sul treno, ma nei pressi. Sai, si avvicina la fine dell'anno, i debiti devono essere pagati, i conti saldati, ma molti poveri non sono in grado di farlo. Non possono sopportare questo disonore, ma non possono neppure permettersi un funerale decente, così si suicidano vicino alle rotaie, sapendo che la società delle ferrovie provvederà alle bare e alla sepoltura, piuttosto che lasciar marcire i loro corpi dove tutti possano vederli. La bambina esitò solo un secondo. Madre, ribatté. Se le compagnie sono pronte a pagare per quello, perché non danno addirittura i soldi ai poveri? Allora potrebbero pagare i loro debiti e non dovrebbe morire nessuno. Non è così semplice, figlia mia. Tu dici sempre così, si lamentò la bambina. Lo dici sempre per qualsiasi cosa. Sì, credo che tu abbia ragione, ammise l'una di primavera. Era vero, c'erano tante cose che non si potevano mai spiegare e nemmeno capire. Forse era il destino, dopo tutto. Ma perché, madre? Perché è così, figlia mia. Da quando gli uomini hanno cominciato a vivere sulla terra, alcuni hanno avuto più degli altri. Alcuni danno a prestito e altri prendono a prestito, e così sarà sempre. Persino il saggio disse che è più facile muovere le montagne che cambiare il cuore degli uomini. Giada lucente rifletté un istante, poi solennemente dichiarò: Madre, forse è difficile, ma io ci riuscirò, certo. Senza aspettare una risposta, incollò di nuovo il naso al finestrino. L'una di primavera sospirò. Perché mia figlia non capisce il senso di quanto le insegno? Si chiese. Non era la prima volta che la bambina formulava tali propositi. Era come se vi fossero troppi spiriti in lei che la trascinavano di qua e di là. Non imparerà mai a piegarsi, pensò l'una di primavera, e pregò che nessuno la spezzasse mai. Dopo un po' il treno cominciò a rallentare. Giada lucente si rivolse di nuovo alla madre. Siamo a Sciucciao, madre? Erano già arrivate? L'una di primavera guardò fuori dal finestrino, poi sorrise fra sé. Non poteva ricordare, non avendo mai visto la città, come poteva riconoscerla? Improvvisamente si udì un fischio acuto e il treno si fermò con un grande stridio di freni. I passeggeri barcollarono in avanti e Ciccia scivolò per terra con tutti i suoi fagotti e si svegliò con un urlo. Quanin misericordiosa! Urlò la vecchia sull'altro lato del corridoio. Banditi! Devono essere i banditi! Banditi! Banditi! Urlò Giada lucente. Ciccia si tirò su con difficoltà, spazzandosi via la polvere dai vestiti. Forse uno ti rapirà, mulo recalcitrante, forse allora potrò riposare un po'. Io non ho paura di loro, si vantò Giada lucente, nemmeno se mi versano salsa di peperoncino rosso nelle narici. E dove sono del resto? Madre, devo ingoiare il mio anello? Non sono banditi, non sono banditi, gridò il capotreno dal suo posto in fondo al vagone. Solo una breve fermata. Siamo a meno di un lì dalla stazione di Sciucciao. Calma, non c'è niente, non c'è nessun bandito. Oh, non è giusto, si lamentò la bambina, la cui storia preferita era quella di Mulan, la figlia che prese il posto del padre in battaglia. Gli avrei strappato via un occhio, avrei. Smettila! La sgridò Ciccia. Tutti ti guardano! L'una di primavera si alzò di scatto. Tutto a un tratto non poté aspettare oltre di vedere la sua città natale, nuova per lei come lo era stata quel giorno di 28 anni prima in cui aveva aperto gli occhi per la prima volta. Aiutami, vecchia amica, aiutami a tirar giù il finestrino. Poi tutte e tre si sporsero per guardare. La città non era ancora in vista, ma la stazione sì. Fra il treno e la tettoia illuminata dal sole si era raccolta una grande folla che bloccava la strada. Indossavano tutti la casacca corta e larga e i pantaloni blu stinto dei contadini, tranne uno vestito da signore. L'una di primavera era troppo lontana per distinguere il suo volto, ma subito ebbe l'impressione di conoscerlo. Non era solo l'abito che lo distingueva dagli altri. Mentre tutti si agitavano e urlavano, lui stava perfettamente immobile, le mani dietro la schiena, guardando lontano come il poeta di un quadro. Era talento coraggioso, il primo figlio, il suo zio adorato. Chi sono quegli uomini, madre? Non lo so. Ma il signore con l'abito lungo è il tuo prozio più anziano. Si voltò e Felice fece un cenno verso l'esterrefatta Ciccia, che subito scostò la bambina e si fece avanti, socchiudendo gli occhi per vedere meglio. Altrettanto rapidamente Giada Lucente si infilò di nuovo fra le due donne. Il prozio più anziano? Quello che ha conosciuto mio padre in America? Sì, proprio lui. Ma cosa fa qui? Possiamo andare da lui? No, non possiamo, ma gli manderò un messaggio. L'una di primavera lo scrisse rapidamente su un foglietto che consegnò con una moneta a uno dei portatori che stazionavano vicino ai binari. Mentre aspettavano, gli altri passeggeri scesero, preferendo affittare delle portantine per percorrere gli ultimi 100 ma che li separavano dalla stazione. Ciccia raccolse i suoi fagotti, mentre Giada Lucente si sporgeva dal finestrino descrivendo il percorso del loro messaggero. L'una di primavera sedette per ricomporsi. Non aveva immaginato una simile eventualità, non aveva scritto del suo ritorno, procrastinando la difficile spiegazione nella convinzione che dietro a tutte le parole di benvenuto che avrebbe ricevuto a Xu Chao si sarebbe nascosto il sospetto che in qualche modo lei aveva deluso le aspettative. Certo non si sarebbe mai aspettata di trovare lo zio anziano al loro arrivo. Per un attimo desiderò di poter richiamare il messaggero, ma come poteva mettersi a urlare lì sul treno di fronte a tutti? Un attimo dopo, egli stava salendo sul vagone. L'una di primavera si alzò lentamente, tenendo Giada Lucente davanti a sé. Lui si era fermato sulla porta, respirando affannosamente per lo sforzo di aver camminato tanto in fretta. Poi i suoi occhi incontrarono quelli di lei e sorrise, avvicinandosi lentamente. «Sei proprio tu, nipote mia!» Annuì col capo. Le tre viaggiatrici provenienti da Pechino si inchinarono solennemente. Poi lui si volse di colpo verso Ciccia per salutarla e infine si chinò a guardare Giada Lucente. Sei forse la figlia della mia buona amica? Sì, prozio, sono Giada Lucente. Lui la scrutò per un attimo, poi le accarezzò una guancia. Assomiglia a lui, credo, più che a tua madre, disse. E di nuovo si volse verso l'una di primavera. Perché non ci hai informati del tuo arrivo? Lei fissò lo sguardo sul nastro verde fra i capelli di sua figlia. Sperò che la sua voce non tremasse. Zio, come al solito, sono fonte di guai, si interruppe. Il fatto è che noi... Fonte di guai? Ripeté la bambina, girandosi di botto per guardarla. Madre, non sei sempre stata brava? È proprio così, piccola. Disse a talento coraggioso. L'una di primavera arrossì. La bambina guardò prima uno e poi l'altra e scoppiò a ridere. Un boato improvviso, proveniente dalla folla assembrata nella stazione, interruppe quello scambio di battute. E talento coraggioso si affacciò di scatto al finestrino. Credo sia meglio affittare delle portantine da qui. Può darsi che ci siano più guai del previsto. Quali guai, zio anziano? C'è pericolo? Forse il capostazione ha accettato una bustarella e ha mandato avanti un altro carico prima dei maiali dei nostri contadini. I maiali chiusi nei vagoni sono morti e siamo qui per fare del nostro meglio. Giada Lucente lo tirò per una manica. Io so cosa dovresti fare, prozio. Chiudere il capostazione insieme coi maiali, così Ciccia la afferrò e la scrollò. Tu parli troppo, mocciosa. Così puzzerà di marcio e... L'una di primavera era sempre più in apprensione. Come sarebbe stata accolta nei cortili una bambina tanto sfacciata? Ma lo zio anziano non sembrò prendersela perché sorrise e diede a Giada Lucente un colpetto amichevole sulla schiena. Non credo che dovremmo ricorrere a misure tanto drastiche, nipotina, disse gentilmente. Speriamo in un equo compromesso. Dopotutto non possiamo permetterci di inimicarci il capostazione. Abbiamo bisogno delle ferrovie. Ma quell'uomo non è migliore di un maiale. I contadini saranno soddisfatti di ricevere un compenso. Inoltre, non c'è nulla di più insidioso di un nemico messo con le spalle al muro. Ricordatelo. La bambina aprì la bocca per replicare, ma poi lesse un ammonimento negli occhi della madre e si limitò ad annuire. Chiedo scusa per mia figlia, disse l'una di primavera. Parla troppo. Io apprezzo il suo carattere. Gli occhi di talento coraggioso improvvisamente si velarono. Mi ricorda te. Ciccia e Giada Lucente partirono per prime, seguite dal carro coi bagagli. Talento coraggioso fece cenno agli uomini della terza portantina di aspettare. La guardò in viso e disse: Bentornata, nipote. È bello essere a casa, zio.